Il babbo, il gatto e l'albero. Una mattina un gatto sventato sull'albero restò intrappolato. Il babbo disse: andrò lassù, ve lo porto subito giù. L'albero era alto, tremante. L'albero era vacillante. La mamma disse: per carità, cadere la tua specialità. Cadere, il babbo ridacchiò. Sono uno scalatore o no? È un gioco da bambini per me, salvatore di gattini. Nel portar fuori la scala finì che scivolò e in un letto di fiori, attonito, atterrò. Non importa, bofonchiò, e nervosamente si spazzolò i capelli e il viso con un forzato sorriso. Proveremo il piano B, in un attimo ve lo porto qui. Mamma disse: per piacere, non sei stufo di cadere? Disse il babbo: cadere ancora? Come si permette, signora? Salì su un ramo traditore che si spezzò con un secco rumore. Il babbo sventurato atterrò e sulla schiena sdraiato restò. La mamma disse: sei un pollo, ti romperai l'osso del collo. Il babbo disse: sciocchezzuole, il piano C ora ci vuole. Così facili non ce n'è per uno scalatore come me. E il grande scalatore salì sul muro con ardore. Lo credereste? Con sommo piacere riuscì a non cadere. Fece un bel balzo felino e nell'incavo dell'albero il tapino atterrò preciso, di piatto, proprio giusto sul gatto. Il gatto come Tarzan miagolò e a terra rapido schizzò, felice, contento, beato, grato di essersi salvato. Sorridente e sornione il gatto si lisciò i baffi soddisfatto, ma il povero babbo sfortunato era ancora sull'albero intrappolato.